Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Chi mi ha coltellato ha, mi pare, 26 nomi e cognomi e mi pare un unico mandante. Una specie di nuovo Giulio Cesare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il sindaco, anzi ex sindaco Marino, oggi si è chiusa la sua esperienza e come potremmo dire le sfide di marzo sono state, anche se siamo a ottobre, e lui ha detto: sono stato accoltellato da 26 nomi e cognomi ma da un unico mandante, quindi potete immaginare a chi si riferisce. Oggi si è conclusa comunque questa vicenda, questa saga infinita, anche se ovviamente bisogna vedere poi quali saranno le prossime puntate, non poniamo limiti alla provvidenza. È una notizia che è uscita proprio in questo istante, è che il prefetto di Milano Tronca sarà il commissario al Comune di Roma, quindi la figura reggente, insomma, finché non si andrà a elezioni la prossima primavera. Di questo parleremo moltissimo, quindi della vicenda Marino, di come si è conclusa. Voi ieri già, insomma, era nell'aria questa cosa, però si aspettava il momento in cui sarebbe successo, ne avete già parlato, ma io vorrei che deste oggi un giudizio complessivo di questa vicenda, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia i vostri messaggi, sms al 349-238-6666. E ci sono ancora varie persone che sostengono Marino. Ieri vi parlavo di Diego Della Valle, che ai Stati Generali della Cultura organizzati dal Sole 24 Ore lo aveva difeso, dicendo che in realtà si portava dietro un'eredità, aveva trovato un'eredità di 30-40 anni, e poi soprattutto la gestione di Roma da parte della giunta Alemanno. Che cosa ne pensate? Quali sono le vostre riflessioni arrivati a questo punto? Una valutazione, insomma, così di bilancio di questa vicenda che riguarda Marino. Poi parleremo di varie altre cose, naturalmente, come sempre qui Effetto Notte, pienissima di notizie. Faremo anche un bilancio di Expo, perché domani chiude Expo, quindi chi c'è stato, chi non c'è stato all'Esposizione Universale. Pazienza, insomma, però vediamo che tipo di eredità ci sarà, se è stato un successo, lo è stato effettivamente, ha superato i 21 milioni di visitatori, di cui un terzo stranieri, quindi insomma è andata piuttosto bene la cosa. Quale sarà anche il futuro di questa area e dei vari padiglioni, tutti così futuristici, fantasiosi, costruiti? Ne parleremo, così come ci sarà il meteo, e dovremo anche riuscire a parlare di Valentino Rossi, insomma vediamo, ci sono molte cose, quindi comincio. Voi quindi le vostre riflessioni mandatele come sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. L'addio di Marino, 26 consiglieri si dimettono in blocco, il sindaco decade, in conferenza stampa dice: accoltellato da 26 ma il mandante è uno solo, il prefetto di Milano Tronca sarà il commissario per Roma. Siria, nel documento finale del vertice di Vienna si invita l'ONU ad avviare un processo per le elezioni, convocando governo e opposizione. Immigrazione, decine di migranti annegati, una strage di bambini, sale drammaticamente il bilancio delle vittime dei due naufragi di ieri in Grecia e altri due oggi in Turchia e Spagna. Germania, shock a Berlino, un pedofilo confessa l'omicidio di due bimbi rifugiati. Economia italiana, disoccupazione ai minimi dal 2013, il ministro Padoan parla di una crescita del PIL oltre le stime. Telecom avanza la scalata francese, Nil detiene il 15,1%, il governo dice un'azienda strategica, vigiliamo. Messina senza acqua, il sottosegretario De Vincenti sollecita le istituzioni locali ad agire in tempi rapidi. Expo domani chiude, Mattarella dice sia un giorno di festa e Renzi commenta: vince l'Italia se non scappa dalle sfide. Motociclismo, Valentino Rossi ricorre al Tribunale dello Sport contro la sanzione di Sepang e vuole farsi cancellare la penalità su Valencia. Ovviamente iniziamo dalla vicenda del sindaco Marino, che ufficialmente da oggi, più o meno dalle 18 di oggi pomeriggio, non è più sindaco di Roma, si è consumata quindi la fine della legislatura e della giunta di Ignazio Marino, tra diversi colpi di scena. Su questo vi chiedo di dare quindi un bilancio, un giudizio complessivo. L'ultima puntata, almeno per ora, è questo atto delle dimissioni in blocco di 26 consiglieri comunali, e che appunto ha sancito la decadenza della giunta. Marino ha poi tenuto una conferenza stampa in cui ha ribadito che avrebbe voluto un confronto in aula, che molto è stato fatto dalla sua giunta per Roma, ha sottolineato la sua delusione rispetto al comportamento del Partito Democratico e, come avete sentito, ha detto che è stato accoltellato praticamente da 26 più o meno traditori, anche se non ho usato questa parola, con un solo mandante. Poi il presidente PD Orfini, vediamo, è 8:30, vediamo se riusciamo a sentire qualche problema. Il Presidente del Consiglio, poniamo, facciamo un altro paese. Il Premier inglese non parla col Sindaco di Londra, a parte che Londra è un'altra situazione amministrativa. Che è una cosa un po' particolare. Il Primo Ministro francese non parla mai col Sindaco di Parigi. Le rigiro la domanda. Le sembra normale che il giorno in cui il Presidente del Consiglio, il 27 agosto, convoca il Consiglio dei Ministri per decidere se Roma viene o meno sciolta per mafia e per varare delle norme che aiutano e sostengono Roma ad affrontare il Giubileo, il Sindaco di Roma ritenga di non essere presente? Le rispondo con le parole di un certo Matteo Orfini, che difese quella scelta, che disse che rispondevo, il disse aveva che il diritto sindaco di stare in vacanza. Sì, benissimo. Cioè, voglio dire. Benissimo. Questo Orfini, effettivamente, Marino, nella sua conferenza stampa, poi ne parleremo, ha anche detto: io non sento Renzi da un anno. Effettivamente un po' diciamo curioso che un Presidente del Consiglio non parli con il Sindaco della Capitale. Ma poi voi continuate a mandare le vostre opinioni, ne parleremo, dicevo, tra poco. Adesso invece andiamo su questioni più internazionali. Il vertice di Vienna sul conflitto in Siria, non si sono superate le differenze, ma si è convenuto sul punto che la via da seguire non è militare, occorre una transizione che porti all'uscita di Assad. Questo l'ha detto il ministro degli esteri italiano Gentiloni a chiusura di questo vertice che si è stato a Vienna, appunto, sulla crisi siriana. Però nel documento finale di questo vertice di Vienna non si cita mai espressamente il nome del presidente Assad. È vero, Ugo Tramballi, inviato speciale del Sole 24 Ore? Sì, è vero, ma questa cosa è rilevante, o meglio, è rilevante dal punto di vista del lungo termine di questa trattativa. Non lo è dal punto di vista che la questione di Assad è il punto fondamentale, il nodo fondamentale di discussione di questo vertice, e il fatto stesso che si sia arrivati a questo è già positivo, anche se ovviamente nessuno è d'accordo su questo tema. Intendo dire che mentre gli americani sauditi, per esempio, principalmente gli americani sauditi, vogliono che Bashar Assad, il dittatore della Siria, stiamo parlando di un paese nei quali in 4 anni sono fino ad ora morti 250.000 persone, 10 milioni di persone, cioè la metà della popolazione, o sfollato interno o ha dovuto scappare fuori dai confini del paese. Yeah. In questo paese, appunto, la questione è: gli americani e i sauditi chiedono che Bashar Assad si faccia immediatamente da parte. Gli iraniani e i russi invece propongono che Assad resti ancora per un po', anche se non viene chiarito esattamente come. Ma il problema non è tanto questo è il fatto stesso che si discuta di questo dopo 4 anni di conflitto e col bilancio che ti ho appena dato, è già un miracolo. Questo è un miracolo che si siano incontrati, abbiano deciso di incontrarsi a Vienna con tutti i protagonisti, non i soliti e cosiddetti amici della Siria, ma tutti i veri protagonisti internazionali e regionali, e il fatto che siano entrati già nel nocciolo, in alcuni noccioli del problema, cioè appunto il futuro di Bashar Assad, come fare intervenire, cosa che accadrà appunto nella fase 2 di questo vertice, che continuerà il 3 e 4 novembre sempre a Vienna, far intervenire anche i diretti interessati, cioè gli emissari del regime di Damasco, come gli emissari delle forze di opposizione che combattono attualmente, eccetto gli estremisti islamici, ovviamente. E questo già di per sé è un miracolo spettacolare per la regione, per il Medio Oriente. Quindi per il momento ci sono fatti passi importanti. Assolutamente, importantissimi. E la pace è estremamente lontana ancora, non è pensabile che fra 6 mesi tutto questo possa finire. Potrebbe anche finire invece come, non so, fu la pace, la trattativa e l'accordo di Oslo 20 anni fa fra israeliani e palestinesi, e oggi siamo ancora qui a raccontare il conflitto fra israeliani e palestinesi. Però comunque è un avvenimento importante quello che è accaduto oggi a Vienna. Grazie Ugo Tramballi. Ciao Ugo. Grazie a voi. E restando sulla Siria, gli ultimi archeologi rimasti provano in ogni modo a sottrarre i reperti, le opere all'ISIS, che ha distrutto, lo sapete già, i templi di Palmira. Ero in pericolo, sono dovuto scappare, racconta Radio 24. L'ultimo direttore del sito di Palmira, Mohamed Saleh, intervistato da Raffaella Calandra, Pestum, in Campania, all'interno della Borsa del Turismo Archeologico. Non volevo lasciare Palmira, i bambini mi hanno fatto di lasciare Palmira. Da che cosa significa per lei avere costantemente notizie su ulteriori distruzioni a Palmira? Immagini che il mio ufficio è al mezzo di sito archeologico, immagini che ogni giorno vedo quella rovine, non voglio sentire Palmira senza quella monumenti. Mio padre è nato al Tempio di Baal. Io parlo come una cittadina di Palmira adesso, io non posso vedere Palmira così. Professore Khaled El-Assad, perché è stato ucciso? Loro uccidono nostra storia, nostra identità. E signor Khaled Assad, lui logo di Palmira, l'identità di Palmira, e uccidono tutte le persone che hanno cultura. E sull'altro scenario internazionale, quello dell'Afghanistan, l'Italia fa sapere, il Ministero della Difesa fa sapere che oggi il contingente italiano resterà anche nel 2016 e rafforzerà la sua presenza nel paese. Così era stato già un annuncio dei giorni scorsi, oggi è stato ufficializzato. Invece sul tema dell'immigrazione purtroppo sale il bilancio di morti nei naufragi delle ultime ore. L'Egeo non deve diventare un cimitero, lo ha detto il premier greco Alexis Tsipras davanti al Parlamento di Atene a poche ore dall'ultimo naufragio in cui sono morti almeno 22 migranti, tra cui 13 bambini e 7 donne che erano a bordo di due barconi affondati al largo delle isole Kalymnos e Rodi. Il leader greco ha bollato come una vergogna per l'Europa la tragedia umanitaria in corso e ha chiesto a Bruxelles di condannare ufficialmente la scelta di alcuni paesi membri di erigere muri o barriere e di chiudere le frontiere, come l'Ungheria che ha appena deciso di sigillare con una barriera metallica e di filo spinato l'intera frontiera con la Serbia. Nel solo mese di ottobre sono state quasi una settantina le persone morte nelle acque greche, per la maggior parte bambini, e dall'inizio del 2015 sono stati oltre 560.000 i migranti giunti in Grecia via mare. Sul governo di questo epocale flusso di migranti si gioca il destino dell'UE, ha detto oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Europa è ad un bivio, o va avanti o rischia di scivolare indietro in nuovi nazionalismi dagli esiti imprevedibili, ha aggiunto. Intanto, per la BBC Online, le potenze internazionali e i paesi europei riuniti oggi a Vienna, tra cui l'Italia, hanno fatto progressi sul futuro della Siria, anche se restano in disaccordo su quello del presidente Bashar al-Assad. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ora invece sulle notizie italiane, notizie dal mondo del lavoro: la disoccupazione scende ai minimi dal 2013, secondo i dati Istat, aumentano però gli inattivi, quelli che non cercano lavoro. Prosegue intanto la risalita dell'inflazione. Nuovo calo per il tasso di disoccupazione che a settembre si attesta all'11,8%, il livello più basso dal gennaio 2013. Si tratta, rileva l'Istat, del terzo calo consecutivo. La disoccupazione è infrenata anche fra i giovani al 40,5%, in calo dello 0,2 da agosto. A fronte di questo miglioramento però c'è anche un calo degli occupati, 11.000 giovani in meno dovuto all'aumento degli inattivi. Il Jobs Act ha restituito credibilità a livello internazionale, ma soprattutto ha creato opportunità e posti di lavoro stabili, commenta il premier Matteo Renzi. Cauto il presidente di Confindustria Squinzi, che parla di un cambio di tendenza, anche se per agganciare una vera ripresa, sottolinea, ci vuole ancora qualcosa. Critici i sindacati. Per Serena Sorrentino della CGIL il mercato del lavoro è ancora instabile, sulla stessa linea Guglielmo Loi della UIL. Toni diversi invece dalla CISL, con Gigi Pettini che parla di un'ormai visibile seppur lenta inversione di tendenza. Prosegue intanto la risalita dell'inflazione con nuovi rincari per il carrello della spesa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Messina in Sicilia senza acqua, lo sapete da diversi giorni. Il sottosegretario De Vincenti sollecita le istituzioni locali ad agire in tempi rapidi. De Vincenti ha sollecitato le istituzioni a effettuare in tempi rapidi le operazioni di ripristino della funzionalità dell'acquedotto. Questo si legge in una nota, in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. Poi l'Expo, che domani chiude i battenti. Mattarella chiede che sia un giorno di festa. Renzi dice: questo è il successo dell'Italia che non scappa dalle sfide. Insomma, ci sono stati oltre 21 milioni di visitatori. Poi daremo altri numeri per questo bilancio, comunque di successo. E per chiudere, lo sport con Valentino Rossi, che ha deciso di ricorrere contro la sanzione dei commissari FIM per il contatto che ha avuto con Marc Marquez nel Gran Premio di Sepang. Vuole farsi cancellare la penalità a Valencia, dovrebbe partire per ultimo. Se avremo tempo parleremo anche di questo. Volevo leggere prima della viabilità degli aggiornamenti per chi viaggia alcuni vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Mettete un nome anche d'arte. Marino dovrebbe autoprescriversi uno psicofarmaco per malati di protagonismo, scrive qualcuno. Carlo Galantini da Milano dice, vediamo se si ferma il monitor impazzito perché sta viaggiando avanti e indietro: ormai è dimostrato, al PD non piace chi fa pulizia, poco male morirà nell'erciume. Un altro: Marino non conosce Casa Monica ma conosce il mandante del PD. Continuate con le vostre riflessioni, proprio questione di pochi momenti. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Allora, diamo un occhio ai vostri messaggi tra i tanti che arrivano, per esempio Daniele sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Normale amministrazione, dice, questa vicenda di Marino, tutto già deciso a Roma, probabilmente salvo cambio di orizzonte importanti nel frattempo, le elezioni saranno vinte da una forza alternativa. Gio scrive, nessuno che dica che anche la città metropolitana di Roma capitale rimane senza sindaco. In realtà è notizia di poco fa che vi ho dato, che arriva come commissario reggente fino alle elezioni il prefetto di Milano Tronca. Lorenzo scrive, Marino non era un grande amministratore ma sicuramente era onesto. Non è detto che adesso si vada in meglio. E vi ricordo le notizie più importanti, a parte naturalmente l'addio di Marino, 26 consiglieri si sono dimessi in blocco, quindi il sindaco decade con la sua giunta e lui dice in conferenza stampa, io ho accoltellato un unico mandante, però c'è. Mattarella, per il futuro dei giovani bisogna estirpare la corruzione, ma l'Italia non è un paese incurabile, ha detto oggi il Presidente della Repubblica. Disoccupazione intanto ai minimi dal 2013 e poi migranti, decine di annegati, strage di bambini negli ultimi naufragi che ci sono stati in Grecia. L'Italia resta in Afghanistan e aumenta il contingente. Per quanto riguarda la Siria c'è stato questo vertice a Vienna e pare che ci sia un piano per il cessate il fuoco e poi una fase di transizione in cui poi dovrebbe portare all'addio del presidente Assad. E ancora Expo domani chiude i battenti e ne parleremo diffusamente dopo, e Rossi, Valentino Rossi, che ricorre al tribunale sportivo contro la sanzione di Sepang. Chi mi ha coltellato ha, mi pare, 26 nomi e cognomi e mi pare un unico mandante. Spero che dalle nostre scelte si riprenda e che non si torni indietro. Non è in gioco il futuro di Ignazio Marino, è in gioco il futuro di Roma. Si può uccidere una squadra, ma non si possono fermare le idee. Ma non si possono fermare le idee. Ma non si possono fermare le idee. E avrei parlato anche al Partito Democratico, il partito che ho voluto, che ho fondato, per il quale ho corso nel 2009 per la segreteria nazionale, in cui ho creduto e che oggi più mi ha deluso per i comportamenti dei suoi dirigenti, perché ha rinunciato ad agire dentro i confini della democrazia, negando il proprio stesso nome, Partito Democratico, e il proprio DNA. Fabrizio Forché, non so se hai sentito tutta la drammaticità del momento. L'ho sentita, la sto vivendo anche in redazione, quindi stiamo cambiando le pagine perché già, insomma, le novità si stanno... Farai tardi, vice direttore del Sole 24 Ore, come sempre, qui Effetto Notte il venerdì, ciao. A fare c'ha un bilancio del meglio o del peggio della politica della settimana, secondo i punti di vista. Avete sentito insomma la saga Marino, qualcuno ha detto la telenovela brasiliana o messicana, la tragicommedia, la tragedia che diventa farsa, la vicenda dei toni grotteschi, insomma per il momento si è chiusa così, con ieri Marino che aveva ritirato le dimissioni. C'era stato prima un incontro con Orfini, presidente del PD, che evidentemente non ha avuto esito, e poi oggi si sono dimessi in blocco, così come ha chiesto il Partito Democratico, 26 consiglieri, dovevano essere almeno 25, erano 19 quelli del PD, e poi si sono dimessi altri 7 consiglieri, 2 della maggioranza, uno del Centro Democratico e l'altro di Lista Civica Marino, e 5 dell'opposizione. E così per il momento l'esperienza si è conclusa in questo modo. Fabrizio, intanto una tua osservazione proprio così lapidaria su, diciamo, questo esito. Le parole che stavi facendo sentire di Marino, io ho sempre l'impressione, un po' quando sento Marino, che ci sia una certa dissociazione dalla realtà, insomma. Lui deve ricordare innanzitutto che lui si è dimesso 10 giorni fa. Forse non doveva farlo, forse non doveva farlo allora? Non so se non doveva farlo allora, erano emerse le questioni dei rimborsi spesa, era in una situazione in cui evidentemente non aveva alternative a quella di annunciare le dimissioni. Non capisco in questi 10 giorni se francamente che cosa è cambiato, per cui 10 giorni fa ti sei dimesso e dopo 10 giorni di tiri le dimissioni, non ci sono fatti nuovi. E quindi insomma in questo c'è una sua posizione di forte debolezza. Poi, come dire, ha ragione e si comprende anche umanamente il risentimento verso coloro che secondo lui l'hanno tradito, comunque lo hanno abbandonato a un certo punto del suo percorso dopo averlo difeso. Senti Fabrizio, negli ultimi giorni l'hanno lasciato andare. Scusami, ti faccio sentire quando dice che è deluso dal PD. E avrei parlato anche al Partito Democratico, il partito che ho voluto, che ho fondato, per il quale ho corso nel 2009 per la segreteria nazionale, in cui ho creduto e che oggi più mi ha deluso per i comportamenti dei suoi dirigenti, perché ha rinunciato ad agire dentro i confini della democrazia, negando il proprio stesso nome, Partito Democratico, e il proprio DNA. Quindi la delusione del PD, ma adesso sentiamo quella che era stata la sua richiesta insistente, che lui dice che è stata completamente disattesa, e si chiede perché. Perché in questo momento, di fronte a un sindaco che ostinatamente e orgogliosamente chiede un confronto nel luogo democratico, le forze politiche utilizzano ogni strumento possibile, anche lo strumento burocratico delle dimissioni di massa, per impedire un confronto dove ci si guarda negli occhi. E insiste appunto sull'auspicio di una chiusura della sua esperienza in aula e non in questo modo. La crisi politica che si è aperta al Comune di Roma auspicavo che si potesse chiudere nell'aula, in modo da poter spiegare con un dibattito chiaro e trasparente cosa stesse accadendo. Invece si è preferito andare dal notaio, segno di una politica che discute e decide fuori dalle sedi democratiche, riducendo gli eletti a meri soggetti che ratificano decisioni assunte altrove. E a questo proposito dice che i consiglieri che si sono dimessi si sono praticamente sottomessi. Ostinatamente ho chiesto di poter intervenire in Assemblea Capitolina, la casa della capitale d'Italia, la casa degli eletti dal popolo, la casa delle romane e dei romani. Mi è stato negato e chiedo ancora perché. Perché? Prendendo atto della scelta dei consiglieri che hanno preferito sottomettersi e dimettersi. Tra l'altro leggo adesso, agenzia di poco fa, che Marino sta incontrando in Campidoglio un gruppo dei suoi sostenitori. Fabrizio Forché, non si poteva accontentare in questo senso? Era un passaggio politico troppo compromissorio, compromettente? Su questo devo dire, Marino secondo me ha ragione. E in questo si è dimostrata la debolezza del Partito Democratico, in particolare del Partito Democratico Romano. Insomma, la via maestra era quella sicuramente del dibattito in aula e della sfiducia da parte dei consiglieri del PD al sindaco. Questa era la via da maestra, ma non da oggi, ma da settimane. La verità è che il PD non ha avuto questa forza di in qualche modo appunto affrontare questo dibattito e sfiduciare il sindaco in aula. E quindi su questo io credo che Marino abbia ragione. Poi Marino ha tutte le sedi e ha avuto in queste settimane, in questi mesi, tutte le sedi comunque per come dire, chiarire questa situazione, per parlare non solo in Consiglio Comunale ma per parlare comunque ai cittadini, quindi tutto quello che avrebbe dovuto chiarire lo poteva chiarire e lo poteva chiarire da settimane, per cui insomma poi nel merito comunque io credo che il suo destino fosse segnato, e se Marino cade secondo me non per colpa del PD o di Renzi, come poi lui accusa, perché poi l'accusa di Marino mandante di sarebbe il lui mandante, un unico mandante evidentemente è Renzi. Non è questa, io non credo sia la verità, nel senso che Renzi politicamente ha avuto invece l'interesse per mesi a che a Roma si andasse avanti con l'esperienza di Marino, non tanto perché credesse in Marino ma perché voleva evitare le elezioni nel 2016 a Roma, con tutti i rischi che questo comporta per il PD. Purtroppo Marino in questi mesi ha dimostrato di non avere la forza per offrire un governo credibile a Roma. Certamente il PD romano, le divisioni del PD romano, le tanti interessi che ruotano intorno al Comune di Roma, le sue partecipate, hanno fatto sì che poi Marino non riuscisse ad andare avanti. Fabrizio, però ti voglio far sentire questa dichiarazione che fa Marino quando gli si chiede, ma con Renzi ha parlato, sentiamo. Io non ho assolutamente avuto rapporti turbolenti con il Presidente del Consiglio. Nell'ultimo anno non ho avuto nessun rapporto. Al di là quindi degli errori o della possibile incapacità di Marino, non ti sembra una cosa gravissima che il Presidente del Consiglio, oltre che segretario del PD, se è vero quello che dice Marino, che in un anno non ha mai parlato con il sindaco della capitale italiana, non di un paesello, di una cittadina? Ma questo però non lo sappiamo ora esattamente cosa se fosse vero, non sono mai parlati, i rapporti tra i due, non possiamo entrare, voglio dire, appunto, in un rapporto tra i due che poi in realtà non conosciamo. Marino era comunque sindaco eletto direttamente dai cittadini, in qualche modo lui ha cavalcato anche questo rapporto diretto con i cittadini. Appunto, fammi dire che in questo emerge poi una contraddizione, una difficoltà del sistema politico italiano che va al di là dell'esperienza di Marino e che rischia di riprodurre casi, anzi lo sappiamo, dei magistrati a Napoli. Ci sono casi che rivedremo in futuro, perché questa elezione diretta dei sindaci è in qualche modo un'elezione del Presidente del Consiglio, che anche questa diventa sempre più diretta e finisce per saltare la mediazione dei partiti e crea dei leader locali che si, come dire, parlano direttamente al loro popolo. E anche Marino ha fatto questo, perché poi se Marino ha ritirato le dimissioni è perché in questi giorni e ha visto, come dire, un po' rinsaldarsi un suo rapporto con una parte della città, no? Le persone che andavano sotto il Campidoglio, che dicevano resisti, e lui ha molto puntato su questo rapporto, per cui poi in qualche modo anche lui ha girato il PD, non ha cercato più il sostegno del PD, ma ha cercato un suo sostegno diretto nel popolo. Questa è una contraddizione che emergerà non solo a Roma, ma anche in altre situazioni, già sta emergendo. Senti, per chiudere, Fabrizio Forché, Padoan oggi ha detto che la crescita è oltre le previsioni, ci sono i dati Istat che parlano di una disoccupazione un po' in calo. Sentiamo un passaggio di Padoan. Risultati recenti in termini di crescita di PIL, sta andando oltre le previsioni. Gli investimenti sono diventati finalmente positivi come tasso di crescita. L'occupazione significativa è buona, con contratti migliori. Possiamo stare quasi tranquilli? Non possiamo ancora stare tranquilli, sicuramente la tendenza è positiva, dobbiamo fare di tutto ancora però, sia il governo, sia le imprese, i sindacati, il mondo del lavoro, tutti, per dare forza a questa ripresa. Il dato dell'occupazione di oggi in realtà non è interamente positivo, perché oltre a calare la disoccupazione calano anche gli occupati e invece si allarga la schiera degli inattivi cosiddetti, infatti, che sono coloro che non cercano lavoro. Mm-hmm. Quindi è un dato che in realtà fa anche un po' preoccupare, perché è vero che tutti gli altri dati vanno nella direzione di una ripresa, però c'è sempre questo rischio che aleggia di una ripresa senza lavoro, senza occupazione, e questo è un pericolo che non corre solo l'Italia, ma corre tutta l'Europa, e sarebbe davvero molto pericoloso, molto dannoso. Fabrizio, sentiamo un attimo cosa dice Crozza sulla sete, vediamo se ci fa sorridere. Quantomeno farà venire il tetano, ma la brioche, l'OMS dice che la brioche fa venire il tetano, ma allora che cos'è? No, cos'è che fa bene? No, perché io se guardo il mio frigo in questo momento, io dovrei essere morto negli anni 70. Ditemi voi. Come cosa degli allarmi dell'OMS, che mangi tu, Fabrizio, di preferenza? No, io purtroppo consumo molto prosciutto crudo, perché io negli anni 70 sì, anch'io probabilmente non li avrei superati. Speriamo di sentirci tra qualche anno comunque, qui Fabrizio, no, mi raccomando, vedi, dare un po' una raddrizzata alla tua alimentazione, va bene? Grazie. Ciao Fabrizio Forché, buon lavoro. Buonasera. Ciao. Prima di lasciarci brevemente, come solito per questa pausa di ricreazione, Rosanna dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: il PD è morto. Poi Gio: Marino ha fatto bene come ha fatto, ma doveva andare a finire così. Giovanni, rimane l'immagine di una situazione politica che ormai ci ha deluso su tutti gli aspetti, purtroppo destra e sinistra, non ho alcuna differenza, poi si lamentano per il non voto, domanda a tutti i politici a cosa serve votare se poi fate quello che cavolo volete. 349-238-6666 per i messaggi, sms, se no con le vostre riflessioni sempre sulla vicenda Marino, un bilancio insomma di questa storia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A dopo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Cristian scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, abbiamo appena parlato lungamente della vicenda Marino, di come si è conclusa. Roberta Giordano sempre con voi. Cristian dice: il Partito Democratico e i suoi consiglieri hanno appena scritto una pagina ignobile della storia di questo paese, un sindaco selezionato dagli elettori del proprio partito, dapprima boicottato, poi delegittimato, poi linciato dai media e infine diffamato. Nino scrive: il PD regala Roma ai 5 Stelle, strana logica ma tipicamente miope. Voi continuate quindi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia con gli sms al 349-238-6666 a commentare l'esito di questa vicenda, anche a dare un giudizio complessivo insomma di come è andato il cosiddetto caso Marino. Vi ricordo le notizie più importanti e tra poco faremo un bilancio di un grande evento che domani si chiude. L'addio di Marino, si dimettono 26 consiglieri in blocco, il sindaco decade, in conferenza stampa dice: sono stato accoltellato da 26, ma il mandante uno solo, il prefetto di Milano Tronca sarà il commissario per Roma. Siria, nel documento finale nel vertice di Vienna si invita l'ONU ad avviare un processo per le elezioni convocando governo e opposizione. Immigrazione, decine di migranti annegati, strage di bimbi, sale drammaticamente il bilancio delle vittime dei due naufragi di ieri in Grecia e altri due oggi in Turchia e Spagna. Economia italiana, disoccupazione ai minimi dal 2013, il ministro Padoan parla di una crescita del PIL oltre le stime. Messina senz'acqua, il sottosegretario De Vincenti sollecita le istituzioni locali ad agire in tempi rapidi. Expo che chiude domani, ne parliamo tra pochissimo. E motociclismo con Valentino Rossi che ricorre al Tribunale dello Sport contro la sanzione di Sepang. Quindi è ufficiale, domani dopo 6 mesi l'Expo chiude, quindi chi c'è stato c'è stato, chi non c'è stato pazienza. Raccontiamo adesso con la nostra Laura Bettini. Ciao Laura. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Un po' come è andato, un bilancio di questi 6 mesi, tra l'altro superate anche le aspettative perché sono stati oltre 21 milioni i visitatori. Bisogna dire che i presupposti all'inizio non erano dei migliori, tra vicende di corruzione scoperte durante i lavori in corso, i lavori stessi molto in ritardo, si temeva fino all'ultimo che non ce la sarebbe fatta, insomma Milano non ce l'avrebbe fatta, l'Expo non sarebbe iniziato nei tempi concordati. Invece alla fine, Laura, possiamo dire che è stato un successo? Io direi che possiamo dirlo nei numeri, anche se gli obiettivi, adesso se ci andiamo a ricercare quello che aveva detto il commissario Sala, allora l'obiettivo era 24 milioni per fare quadrare i conti. Siamo un po' sotto, i conti quindi probabilmente in qualche maniera non quadreranno, almeno non attraverso i biglietti, perché magari poi dopo ci saranno altre possibilità per farli quadrare. Ho sentito spesso anche mettere in dubbio il fatto dei 21 milioni, 20 milioni, Beh, 21 sì, milioni. È stata una polemica infinita. Una polemica infinita. Quelli sono i numeri degli ingressi, io credo che quelli siano credibili, poi dopo che siano tutti biglietti pagati, questo possiamo anche metterlo in discussione. Possiamo pensare che siano state portate le truppe cammellate, deportati vecchietti dal sud, ho letto treni pieni eccetera, può essere, tutto può essere, però gli ingressi quelli sono. Poi appunto che tutti abbiano pagato il biglietto a prezzo pieno o che l'abbiano addirittura pagato, questo io non ho dati per suffragare né l'una né l'altra tesi. E quindi da un punto di vista dei numeri io direi di sì. Devo dire, io sono stata nell'ultimo mese, è infrequentabile adesso, solo un grande appassionato, un grande chi aveva già preso il biglietto, così, ma ecco, se uno i tenaci sopravvivono, gli altri vengono decisamente selezione naturale. Perché io ti devo dire, invece sono stata lì all'Expo 2 settimane dopo l'inaugurazione, quindi era praticamente maggio scorso, giugno se non sbaglio, e già trovavo folle fare mezz'ora. Io ho fatto mezz'ora per entrare in vari padiglioni, no? Però ultimamente io anch'io l'ho visti, tutti quelli che ho visto l'ho visti a maggio perché c'era poca coda. In Giappone adesso 9 ore, ma com'è possibile? Ecco, questo diciamo è un punto critico di questo successo generale complessivo dell'Expo. Però queste file, ma questo folle... dovrebbe insegnare a chi progetterà i padiglioni che andranno negli Emirati Arabi, no, a Dubai nella prossima edizione, a non progettare padiglioni come quello del Giappone se desiderano avere grandi flussi di visitatori, perché lì il problema qual è? È come è stato strutturato, come del resto Palazzo Italia. Palazzo Italia non fornisce cifre ufficiali su quanti sono stati i visitatori, però a me avevano detto 15-17 mila al giorno. Se fai i conti sono sicuramente meno di quelli che hanno visitato il padiglione degli Stati Uniti, della Russia, di tanti altri, perché è la forma che è così e non puoi far entrare più di tot persone alla volta. Ci sono lì, ci sono i piani, comunque in Giappone nel Giappone ci sono le stanze, in ogni stanza ci possono stare al massimo un certo numero di persone, ci sono motivi di sicurezza e ci sono proprio motivi di visita. Nel quello del Giappone c'è una stanza a forma di ristorante, su ogni tavolo c'è un piccolo tablet dove uno si siede e può così smanettare, come si dice, e aprire le finestre qua e là, bellissimo, giapponese ovviamente, per vedere specialità gastronomiche, specialità gastronomiche, come sono prodotte, quali sono i pesci che vengono utilizzati e così via. Questo però implica che in quella stanza ci stanno al massimo un certo numero di persone, perché si deve stare seduti davanti a un computer e quindi non ne possono entrare di più. La visita in totale è previsto 45-50 minuti per il padiglione del Giappone, quindi se ne entrano 100 alla volta e ci mettono 50 minuti a visitarlo, adesso è facile fare i conti, però la coda per forza diventa lunghissima, no? Anche se questa cosa evidentemente ha alimentato ulteriormente il desiderio di vedere il Giappone, certo. Perché ci fanno 9 ore di fila, resistono strenuamente per... e così. Senti, vuoi darci altri numeri? Per esempio, so che c'è stato un giorno record, che il 10 ottobre. Sì, 270.000 persone, questo almeno mi sembra sia il massimo che siano riusciti a registrare in un giorno solo, ovviamente era un sabato. E, sabato di settembre-ottobre sono andati via in crescendo, adesso siamo un po' scemati, ma anche perché le condizioni climatiche sono cambiate, no? Ci sono stati giorni di nebbia, giorni di pioggia. È chiaro che in quel giorno lì il milanese non parte per andare all'Expo, neanche tutti i lombardi, perché sanno che sarà una brutta giornata, a parte chi viene da lontano perché ormai ha già deciso che quello è il giorno. Quello, senti, è stato il massimo. Molti tra i numeri, anche molti capi di Stato, no? Hanno visitato, ci sono stati personaggi internazionali, diversi, Ban Ki-moon anche, no? Gli ultimi sono stati Ban Ki-moon, poi sono arrivati ovviamente, come sappiamo, Michelle Obama. Obama ha mancato invece, lui ci ha lasciato a bocca asciutta, ma c'erano questi grandissimi nel padiglione degli Stati Uniti schermi in cui continuava a parlare, quindi non abbiamo sentito la mancanza in questo periodo. E sono arrivati un po' tutti, in realtà sono state festeggiate non so più neanche quante giornate nazionali, ogni giornata nazionale ce n'era una, insomma. Ha avuto, sì, sono veramente pochi quei paesi che erano presenti all'Expo che hanno giornate nazionali nei 6 mesi in cui non c'era l'Expo, insomma, quindi si riduce veramente, no? 144 paesi, quindi insomma un bel numero. Tra l'altro questo evento ha rilanciato Milano sulla scena internazionale. Leggevo che il New York Times ha dichiarato Milano la città numero uno nella lista delle 52 città da visitare nel 2015. Sì, io spero che per Milano sia stata davvero un'occasione per farsi vedere e anche per... come dire, ritrovare un certo orgoglio come città turistica e non solo come città del lavoro, della moda, quello che ha negli ultimi 20 anni, no? L'etichetta classica. Invece a Milano ci sono veramente dei bei musei, ci sono sicuramente dei bei monumenti, ci sono dei dintorni straordinari, perché poi Milano è ben collegata a tutta la Lombardia, al Veneto, al Piemonte, cioè è tutto molto vicino, alla fine si fa tutto molto rapidamente. I dati parlano per il mese di settembre, che quelli che ho trovato sono più disponibili, 900.000 presenze a settembre, ovvero il 35% in più del settembre 2014, ma soprattutto l'aumento era stato in agosto, l'aumento del 49% rispetto all'agosto dell'anno scorso. Come dicono ovviamente i milanesi, insomma, che stanno addentro a queste cose, dovremmo fare un confronto 2014 con 2016, cioè saltiamo l'anno dell'Expo, vediamo com'era nel 2014 e vediamo davvero l'anno prossimo arriveranno più persone. Senti, per chiudere, Laura Bettini, adesso rimane la domanda su che cosa ne sarà di quello spazio e anche di tutti quei padiglioni così belli, creativi, futuribili, no? Che fine faranno? Si parlava di un campus universitario, però sì, sembra, sì, ancora... sì, sembra quella è la principale destinazione. Camera di Commercio di Milano e Università Statale di Milano stanno lavorando a questo progetto, ed è la parte più cospicua, diciamo, dell'ascito dell'Expo. Una parte, dall'altro, di quel territorio, la metà circa, deve essere destinato a verde pubblico, non, ma mi sembra che abbiano già edificato abbastanza. L'altra metà è quella costruita, e lì bisognerà lavorare sul futuro. I principali progetti sono questi dell'Università, della Camera di Commercio. Però molti padiglioni verranno smontati, praticamente qualcuno tutti, se lo porterà. La maggioranza, ecco, verrà smontata, ovviamente resta ciò che è in muratura, quindi Palazzo Italia, che potrebbe essere appunto la nuova sede dell'Università Statale di Milano. Bisognerà vedere quali facoltà, se saranno a tema, per esempio con l'Expo, che è una questione importante. Il vogliamo cibo. Dare il lascito dell'Expo, deve essere qualcosa che ha a che fare con la nutrizione, il cibo, l'agricoltura. Con nutrire il pianeta. Speriamo di sì. C'è lo speciale domani poi su Radio 24. 18:20, no? Anna Migliorati in conduzione, e Gigi Donelli ed io saremo là a fare galoppini come sempre. Speciale dalle 18 alle 20 domani su Radio 24. Grazie Laura Bettini. Grazie a voi. Ciao Laura, viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Giorgio da Torino scrive al 349-238-6666, ma come si fa a non riconoscere in Marino un uomo onesto prima che un politico, in balia degli squali che adesso si vogliono spartire la greppia del prossimo happening vaticano? E poi intanto c'è il prefetto Tronca di Milano che dice orgoglioso della fiducia accordata, perché sapete che è stato nominato commissario per Roma. Vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata, che sono appunto la fine dell'esperienza di Marino come sindaco, visto che 26 consiglieri si sono dimessi in blocco. Poi Mattarella sul futuro dei giovani, che dice bisogna estirpare la corruzione, ma l'Italia non è un paese incurabile. Sulla disoccupazione è ai minimi dal 2013, secondo i dati Istat. Migranti, decine di annegati, strage di bambini in questi naufragi che si sono stati nelle ultime ore. E poi per la Siria c'è stato un vertice a Vienna e si va verso una transizione che porti il prima possibile Assad, diciamo, fuori dalla Siria e che lasci il ruolo di presidente. Europa 24 notte. Il Parlamento europeo ha assegnato al blogger saudita Raif Badawi il premio Sakharov 2015 per la libertà di espressione. Den Sakharov-Preis verleihen möchte an den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi. Vincitore del premio Sakharov 2015, Raif Badawi è il fondatore di Free Saudi Liberals, forum di discussione sul ruolo della religione nell'Arabia Saudita. In prigione da 3 anni e sopravvissuto ai primi 50 colpi di frusta, il 31enne Badawi è stato condannato a 10 anni di carcere, 1000 frustate e una multa pari a 240.000 euro per oltraggio all'Islam. Il premio Sakharov, istituito nel 1988, è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo per accendere i riflettori della comunità internazionale su casi emblematici di violazione dei diritti umani. Il giornalista ed europarlamentare democratico David Sassoli. Raif è un esempio di tanti casi che nel mondo mettono in scena accanimenti contro gli uomini, le donne, le loro libertà, i loro diritti. È un premio, diciamo, a chi soffre per mancanza di diritti fondamentali e universali. La vittoria di Raif risuona più che mai come un richiamo politico a governi e istituzioni europee per rivedere i rapporti con l'Arabia Saudita. Monica Frassoni, presidente degli Eurodeputati Verdi. I rapporti con l'Arabia Saudita sono estremamente forti da parte dell'Unione Europea e di molti suoi stati membri, oltre che di tutto il mondo occidentale. E quindi si vuole sottolineare la situazione disastrosa dei diritti umani in questo paese, che rimane intrattabile dal punto di vista dei diritti umani. Quindi ci sembra importante sottolineare il significato politico, appunto, di un rapporto malato con l'Arabia Saudita. A breve Raif dovrà subire la seconda fustigazione, ha fatto sapere della moglie dal Canada, dove ha ottenuto asilo insieme ai loro tre figli. Le pene corporali erano state sospese a gennaio 2015 dopo una mobilitazione internazionale, ma sono state riconfermate a giugno. Il presidente Martin Schulz ha rinnovato l'appello al re saudita di rilasciare immediatamente Badawi e di permettergli di ritirare il premio alla cerimonia del 16 dicembre, ancora Frassoni. È successo in varie occasioni che magari non subito, però questo premio e l'attenzione intorno ad esso portasse a un effetto positivo per il prigioniero o per la prigioniera. Il compito che mi ero proposto, dice Raif Badawi in un libro pubblicato a settembre che raccoglie i testi del suo sito, era di fare la mia parte nel diffondere l'illuminismo nella società araba, abbattendo i muri dell'ignoranza, incrinando la visione sacrale delle autorità religiose e promuovendo un minimo di pluralismo e di rispetto per la libertà. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso la volta di Valentino Rossi. Giovanni Capuano, ci spieghi che ha fatto ricorso Valentino dopo Sepang? Sì, ha fatto ricorso Roberto e va a Losanna lui, perché va al TAS di Losanna, che è l'ultimo grado nei processi sportivi. Ha fatto ricorso, oggi era l'ultimo giorno utile per depositarlo dopo il Gran Premio di Malesia. Ha fatto ricorso tra l'altro con procedura d'urgenza, perché solitamente il TAS di Losanna ci mette 6 mesi, anche un anno per decidere, ma qui non c'è tempo perché l'8 novembre c'è il Gran Premio di Valencia, quello in cui Valentino Rossi dovrebbe partire dall'ultima fila e tentare questa rimonta pazzesca per difendere i 7 punti di vantaggio su Jorge Lorenzo e vincere il 10° mondiale. Allora che cosa fa Valentino Rossi? Insomma, le polemiche per quello che è successo a Sepang con Marquez le conosciamo tutti. Quello che fa è andare al TAS di Losanna con un ricorso, sperando quantomeno che venga congelata questa sanzione, che significherebbe potersela giocare alla pari e poi eventualmente ritardare di qualche mese il verdetto e capire se a quel punto è confermata o no una sanzione. Questo è l'obiettivo di Valentino Rossi. In realtà non è così semplice, perché ad esempio Marquez e Lorenzo a loro volta potrebbero appellarsi, e perché c'è anche il rischio che la pena venga inasprita, quindi alla fine che il ricorso si trasformi in un boomerang. Ti dico che chi studia questi casi ha poche speranze a Valentino Rossi, perché il TAS di Losanna accolga il ricorso. Ci sono 2 precedenti che riguardano il motociclismo, Max Biaggi nel 98 e Haga nel 2000, e in tutti e 2 casi i 2 motociclisti avevano poi avuto torto davanti al TAS. Staremo a vedere nel caso di Valentino Rossi. Perché non ha molto spazio Valentino Rossi, partendo ultimo a Valencia è molto difficile che arrivi sul podio, cioè quello che gli serve, e quindi deve legittimamente tentare qualunque strada. Certo, grazie Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Grazie a te. Che tempo ci aspetta in questo fine settimana? Chi può dirlo se non il nostro Paolo Corazzoni, Trebimeteo, portatore sano di sole. Paolo, Roberta, ti ringrazio perché mi introduci sempre con tanto ottimismo. Beh, ti dirò che in molte zone dell'Italia in effetti sarà un weekend splendido, perché al centro-nord torna l'alta pressione, avremo giornate belle sia domani che dopo, peraltro anche abbastanza miti nelle ore centrali, però l'attenzione va invece concentrata al sud, in particolare estreme regioni meridionali, Calabria e Sicilia. Sta piovendo in questo momento parecchio sui versanti ionici di queste 2 regioni e temo che domani possa essere una giornata un po' delicata, sempre appunto per Calabria e Sicilia. Vedranno dei temporali, vedranno piogge piuttosto insistenti, domenica in via di miglioramento, ma domani anche chi ci sta ascoltando, insomma, un minimo di attenzione diamola, perché purtroppo anche nei giorni scorsi abbiamo brutti scherzi che ci ha fatto il tempo. Ecco, domani così, ma poi dai, da domenica migliora, settimana prossima sarà bella, si va verso un periodo abbastanza tranquillo. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te, ciao Paolo. Grazie, ciao Roberto, ciao. Sentiamo le 22.